Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Un buon pomeriggio, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Mira Lucchetti, Nadia Zamitti che sono in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Le coordinate per interagire con noi, messaggi, sms al 349-238-6666, Twitter, Giampaz oppure Nessun Luogo 24, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24. Allora, ieri pomeriggio una conferenza stampa congiunta del commissario Cecilia Malmström e del ministro dell'interno Angelino Alfano ha raccontato, ha dato conto di una nuova missione di Frontex che andrà, hanno detto, rimpiazzare l'inizio, ma in realtà non è proprio così, lo sentirete più tardi nel proseguo della trasmissione. Comunque andrà a fiancare quantomeno all'inizio Mare Nostrum, che è destinata a scomparire. Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano. In Brussels the EU said its Frontex border agency would complement and eventually replace Italy's Mare Nostrum operation. The Frontex Plus operation will substitute, take over Mare Nostrum, even if it will not be to the same extent of Mare Nostrum. Has been a very ambitious operation, and we don't know if we can find the means to do exactly what Italy has done. Allora, come avete sentito, questo era il racconto dell'emittente Euronews che dava conto della conferenza stampa di ieri. Ci sono in realtà molti punti di domanda, che più che punti fermi, su quello che farà Frontex Plus o Plus, a seconda che la pronunciate alla latina o all'americana, all'inglese. Ad ogni modo, intanto una prima notazione lessicale: come sentirete da Isabella Cooper, portavoce di Frontex, che siamo riusciti a raggiungere appena prima di questa messa in onda, quindi stiamo preparando l'intervista, ve la faremo sentire, non si chiama Frontex Plus, questo nome è stato creato evidentemente ad hoc per la conferenza stampa, ma a parte questo, i punti di domanda quali sono fondamentalmente? Che ruolo svolgerà la missione Frontex? Quali paesi parteciperanno e contribuiranno? E qui si è capito dalla conferenza stampa che sarà l'Italia a dover, lo dico brutalmente, battere a cassa, ma quantomeno a coinvolgere i paesi dell'Unione Europea. Quali risorse saranno messe in campo? La linea di pattugliamento, questo è certo, sarà molto più distante dalle coste libiche, perché la stessa Malmström ha detto i mezzi, lo scopo e l'area di attività non saranno gli stessi di Frontex. E poi materialmente cosa andrà a fare questa missione Frontex? Ripeto, tanti punti di domanda, però su qualcosa si può discutere, e per questo abbiamo invitato Fulvio Vassallo, professore di diritto all'università, diritto d'asilo, scusate, all'Università di Palermo. Professor Vassallo, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buonasera. Allora, le chiederei un primo commento, una prima reazione a questa conferenza stampa che il ministro dell'interno Alfano ha, come dire, ha presentato con toni anche vittoriosi, con toni di grande entusiasmo, perché in buona sostanza quello che voleva comunicare, se ho ben capito, era che finalmente l'Europa si è accorta che l'Italia ha bisogno degli altri paesi. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che abbia un po' ceduto, perché la Malmström ha affermato testualmente: non so se saremo in grado di trovare i mezzi, e tutto è rinviato agli Stati membri. Come è? Perché Frontex vive e opera in base ai mezzi forniti dagli Stati membri, non ha mezzi propri o mezzi della Commissione. Quindi se gli Stati membri non contribuiscono, Frontex non parte né espande le sue funzioni. E poi dire che Frontex Plus non sarà come Mare Nostrum, ma la sostituirà nel tempo, significa dire una cosa molto vaga, perché in realtà la prospettiva di lavoro che non è emersa dalla conferenza stampa, ma sulla quale erano impegnati gli Sherpa che si erano visti a Roma il giorno prima, è quella di una rinegoziazione degli accordi di riammissione con Tunisia, Egitto e Marocco, nella prospettiva di non fare più arrivare le barche in Italia, ma di deviarle ed eventualmente riconsegnarle, se non alla Libia, che in questo momento non ha un governo e ha una situazione di guerra civile, diciamo, proclamata, si può dire, con due presidenti della Repubblica che si contendono il campo, e rinviare queste imbarcazioni verso altri paesi del Nord Africa. Da questo punto di vista Frontex Plus, in realtà l'operazione Hermes, che è un'operazione di Frontex già in atto per il 2014, verrebbe potenziata con questo volo. In realtà però il vero punto, diciamo, giuridico, perché poi l'opinione pubblica si potrà dividere, e io non penso che possa convincere nessuno con argomenti giuridici, da un punto di vista giuridico, da due due anni si discute se le missioni di Frontex possono andare fuori da quello che è il diritto internazionale del mare, che prevede l'obbligo di salvataggio e di trasferimento in un luogo sicuro di tutte le persone che vengono salvate, quale che sia il luogo del salvataggio. È rimasto aperto anche il problema, e questo è emerso anche ieri evidentemente in conferenza stampa, di quale paese poi sarà il paese di sbarco delle persone salvate, tanto da Frontex Plus, ammesso che esista, quanto dalla missione Mare Nostrum, se fosse rinforzata dai mezzi di Frontex. Come è rimasto anche nell'ombra il ruolo di coordinamento delle operazioni, perché uno dei punti più critici nei rapporti tra gli Stati dell'Unione, la Grecia, la Spagna, l'Italia e Frontex, è sempre stato il potere di coordinamento delle missioni, e quindi in sostanza chi dà ordine alle unità militari impegnate in queste missioni. Sì. Professor Vassallo, stia con me perché abbiamo pronta l'intervista che abbiamo realizzato pochissimi minuti fa con Isabella Cooper, portavoce di Frontex, alla quale ho chiesto innanzitutto che cosa andrà a fare esattamente Frontex Plus, perché la conferenza di stampa di ieri ha lasciato veramente zone d'ombra gigantesche. Ascoltiamo. I wouldn't really want to call it Frontex Plus. There is no name for this. Prima di tutto dice questo non è il nome reale che avrà la missione quando sarà lanciata operativamente. Adesso viene chiamata così a titolo programmatico. Secondo, è stato detto che Frontex Plus andrà a sostituire la missione Mare Nostrum, ma in questo caso il termine sostituire non è corretto, dice Isabella Cooper, perché in realtà Mare Nostrum esegue operazioni di salvataggio su un territorio molto esteso che arriva quasi alla costa libica partendo dalle coste italiane. Mentre Frontex Plus, prosegue la portavoce di Frontex appunto, avrà un ambito geografico di operazione molto più circoscritto e ristretto alle sole acque territoriali italiane. Seconda domanda, ho chiesto a Isabella Cooper se abbiano già un'idea indicativa del budget di cui sarà dotata la nuova missione. Questo dice dipenderà chiaramente dallo scopo e dal periodo di attivazione della missione, così come dipenderà dalle risorse economiche che la Commissione europea intenderà fornirci, ma dipenderà molto anche dalla partecipazione o meno dei Paesi membri dell'Unione europea. Al momento, dice la Cooper, stiamo lavorando al fianco delle autorità italiane e stiamo valutando le loro necessità tecniche e operative e l'obiettivo che dovrà avere la nuova missione. L'ultima domanda che le ho fatto su questo primo capitolo riguarda l'obiettivo, cioè cosa faranno i pattugliamenti Frontex, cosa faranno le imbarcazioni, si limiteranno a monitorare o effettueranno operazioni di salvataggio nel caso si trovassero di fronte a imbarcazioni di migranti in pericolo? Sentite. You see, we are currently, they will be doing what Frontex does in its operations. E dice, le pattuglie faranno esattamente quello che già fanno nell'ambito delle missioni Frontex. Al momento conduciamo già due missioni operative nel Mediterraneo, una Hermes al largo delle coste della Sicilia, l'altra invece quella al largo della Calabria e della Puglia. Ad entrambe partecipano 22 Stati membri, fornendo sia personale che equipaggiamento tecnico, navi, aerei e elicotteri. Per queste due missioni operiamo sotto il controllo e l'autorità del governo italiano, dice la Cooper. Se uno degli aerei della missione individua un'imbarcazione di migranti in difficoltà mentre sorvola le acque italiane in fase di monitoraggio, immediatamente avverte le autorità italiane perché si attivino per l'operazione di ricerca e salvataggio. Noi forniamo anche imbarcazioni per il salvataggio, partecipiamo finanziariamente all'acquisto di imbarcazioni di questo tipo e assistiamo nella dislocazione presso i vari porti, ma quando operiamo, operiamo nell'ambito sotto il controllo delle autorità italiane. Professor Vassallo, a questo punto mi sembra chiaro anche dalle parole della portavoce di Frontex che fondamentalmente questa nuova missione andrà a semplicemente osservare quello che accade e in caso di emergenza, in caso di pericolo, la palla passa come già adesso alle autorità italiane. Sì, difatti devo dire che è fallita la task force nominata dopo la strage del 3 ottobre a Lampedusa lo scorso anno dalla Commissione europea, che doveva dare nuove linee operative a Frontex, anche con attività SAR, ricerca e salvataggio in acque internazionali. La task force non ha elaborato un progetto tale da essere approvato in Commissione e dal Parlamento europeo uscente, e c'è anche da considerare che a livello europeo la governance è molto incerta, perché andiamo verso un rinnovamento di molti organismi, anche la Malmström probabilmente resterà al suo posto, ma forse no, dal dal primo di settembre, quindi tutto rimane assolutamente incerto, al massimo una conferma di quell'esistente. Mare Nostrum Plus non si spingerà più a sud come le navi di Mare Nostrum, o Frontex Plus non arriverà più a sud. Ricordo che l'ACNUR ha detto pochi giorni fa che 1900 persone sono morte nel Mediterraneo mentre cercavano di arrivare in Europa nel 2014 e 1600 dall'inizio di giugno fino alla fine di agosto. Quindi noi abbiamo davanti a noi una crescita esponenziale di vittime di questi viaggi, persone che sono ben consapevoli del rischio che corrono, quindi certamente Mare Nostrum non funziona come un comodo traghetto, come sostengono alcuni, per arrivare in Europa o in Italia, perché gente che muore, che rimane per mare, gente che ha visto proprio annegare figli e mogli, sono quelli che noi poi incontriamo nei porti siciliani, e quindi da questo punto di vista il rischio che di qua a novembre continui questa situazione, perché voglio ricordare che neanche Mare Nostrum riesce a evitare che possano morire 1600 persone in poco più di due mesi, e io credo che dovremmo porci questo problema soprattutto considerando quello che succede nei paesi di transito come la Libia, e dovremmo trovare come Europa una politica e dei politici capaci di proporre soluzioni concrete a questo disastro, che naturalmente non si è prodotto negli ultimi mesi o nell'ultimo anno, ma è frutto anche di politiche sbagliate che sono state basate esclusivamente sulla difesa dei confini e sul respingimento, quei respingimenti che tanti vorrebbero fare oggi, ma che per fortuna non si possono fare perché la Corte Europea nel 2012 ha messo un punto fermo condannando l'Italia per i respingimenti effettuati in Libia nel maggio del 2009 e successivamente sul caso Hirsi. Quei respingimenti oggi non sono praticabili, quindi vanno trovate altre soluzioni. Professor Vassallo, siccome citava l'UNHCR, Maria Luisa Pezzali ha raggiunto proprio quest'oggi Carlotta Sami, che è portavoce di UNHCR per il Sud Europa. L'ascoltiamo insieme. Noi da diverso tempo abbiamo fatto appello affinché l'impegno messo in campo dall'Italia per la ricerca e il soccorso di rifugiati e migranti in mare fosse esteso, diventasse un'operazione congiunta. Da questo punto di vista è positivo che l'operazione si sia in questo modo diventata di responsabilità europea. Ci auspichiamo che l'operazione possa potenziare ciò che già l'Italia ha cominciato a fare, poiché i naufragi e gli incidenti sono avvenuti anche verso la Grecia, verso la Spagna, e quindi non solo fra l'Italia e la Libia, che al momento è la rotta più utilizzata dai migranti, ma le rotte sono variabili, potrebbero cambiare nel tempo, quindi è importante che l'impegno e la priorità nella ricerca e il salvataggio vengano non solo mantenuti ma addirittura potenziati. Frontex Plus dovrebbe sostituire Mare Nostrum. Che giudizio dà a questa operazione? È stata in qualche modo accusata di aver incoraggiato le partenze. Noi come UNHCR non riteniamo che Mare Nostrum abbia incoraggiato le partenze, riteniamo che sia un'operazione da elogiare, un'operazione sicuramente umanitaria che ha posto in qualche modo un rimedio ad una situazione estremamente difficile, determinata dal non risolversi di conflitti, anzi dall'acuirsi di conflitti già esistenti e dal riaccendersi di nuove violenze e persecuzioni. E ultimo in termini di tempo, ma non in termini di gravità, la crisi libica, che in queste ore sta spingendo centinaia e centinaia di persone, per lo più rifugiati, a trovare il Mediterraneo come unica via di fuga. Che cos'altro bisogna fare per fermare le morti in mare? L'aspetto più importante è quello di affiancare al soccorso in mare, affiancare programmi per consentire di ricevere protezioni in modo legale. Le persone continueranno purtroppo ad attraversare il mare, ma bisogna dare la possibilità di accedere alla protezione internazionale in Europa attraverso più programmi, più modalità che devono essere messe a disposizione con il supporto di tutti gli stati in Europa, quindi ammissioni umanitarie, programmi per assistere i più vulnerabili, sponsorizzazioni per i giovani per poter continuare la loro educazione. Stiamo sempre parlando di persone, di rifugiati rifugiati, persone che scappano dalle guerre. In queste settimane continuano ad arrivare giovani, donne, bambini dalla Siria, palestinesi da Gaza, yazidi dall'Iraq, somali che fuggono dal terrorismo, eritrei che fuggono da una dittatura sempre più soffocante e spietata. Occorre quindi che l'Unione Europea e gli Stati dell'Europa tutto mettano a disposizione una strategia che possa fare degli passi concreti sia ora che nell'immediato futuro. (349) 238 6666 per i commenti. Ce ne sono almeno un paio impietosi nei confronti del ministro dell'interno Angelino Alfano. C'è chi dice un parolaio senza quid, così Stefano da Forlì. Altri che dicono, che mi chiedono se secondo me il ministro dell'interno non dovrebbe piuttosto scusarsi di aver passato tutto all'Europa neppure un anno dopo aver inventato Mare Nostrum. Conclude l'ascoltatore dicendo: tutto questo lo vedo davvero insopportabile. Professor Fulvio Vassallo Paleologo insegna diritto d'asilo all'Università di Palermo ed è impegnato sulla questione immigrazione da anni. Secondo lei politicamente l'Italia avrà la forza in questo semestre di non solo farsi sentire dagli altri paesi membri, ma di attuare anche strategie diverse da Mare Nostrum? Perché io credo che una volta che Mare Nostrum dispiegherà le sue forze, sarà come dire, i risultati o i non risultati, diciamo così, saranno immediatamente evidenti a tutti. Ma io credo che innanzitutto Mare Nostrum possa proseguire, perché se si tratta di salvare 400 persone in un giorno, come è successo fino ad oggi, l'idea di poterlo fermare corrisponde all'idea che queste 400 persone vengano lasciate annegare. Io personalmente, anche in base alle mie conoscenze giuridiche, in base al diritto internazionale del mare, in base alla mia coscienza non mi sento di avallare questa tesi. Altri potranno sostenere che è meglio che anneghino perché non arrivino, ma certamente questo costa con i diritti internazionali e costa anche con la coscienza. Da un punto di vista poi economico, siccome molto si fa di quanto costa Mare Nostrum, sì, se l'Italia al suo interno adottasse delle procedure per il riconoscimento dello status di asilo più rapide, questo comporterebbe un taglio drastico dei costi dell'accoglienza che è molto superiore rispetto ai 100 milioni che si spendono annualmente per Mare Nostrum. Noi andremo verso 800 milioni di euro circa per l'accoglienza in un anno, quindi se ragionassimo in termini di un taglio drastico dei tempi per l'esame delle richieste di asilo, anche lavorando sulla distribuzione in Europa e su questo ponendo delle questioni forti in Europa, e su questo la Malmström ha aperto anche uno spiraglio, sì, probabilmente sì, molti migranti che non vogliono restare in Italia, e non vogliono restare perché già oggi circa il 30-40% di quelli che sono lì sono già andati in altri paesi europei, molti di questi accelererebbero la loro partenza dall'Italia e si trasferirebbero dove già hanno parenti o dove hanno nuclei, insomma, dei paesi di provenienza. Quindi anche la questione meramente economica è posta male, perché i 9 milioni al mese di euro che si spendono per Mare Nostrum sono una piccola parte dei 50, 60, 70 e passa milioni di euro che si spendono per tenere in accoglienza anche un anno e mezzo, anche due anni delle persone in attesa della questura di un documento di viaggio. Se questi documenti arrivassero prima, probabilmente queste persone potrebbero essere più autonome di spostarsi, di lasciare l'Italia, e già il sistema potrebbe funzionare meglio solo per questo. Grazie mille a Fulvio Vassallo, insegna fra le altre cose diritto d'asilo all'Università di Palermo. Professore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Sarà Frontex Plus, che poi non si chiama così, l'abbiamo capito, insomma la nuova Frontex sarà la soluzione alla cosiddetta emergenza immigrazione? Anche qua il lessico, mi sentite esitanti, gentili ascoltatori e ascoltatrici, perché? Perché parlare di emergenza immigrazione dopo 15 anni che viviamo questi sbarchi lo trovo davvero, davvero incredibile. Allora, un primo commento su questo possibile, ormai probabile, dispiegamento della missione Frontex. Vedremo chi vi parteciperà, con quanti soldi, con quanti mezzi. In questo momento c'è una fitta corrispondenza, c'è un lavoro che ferve tra Frontex, ce lo confidava Isabella Cooper, e i tecnici italiani, ovviamente, per capire esattamente che cosa andare a fare, quanto sarà efficace e quanto risolverà questo problema. Un commento iniziale su questo lo chiederei a Francesco Rocca, presidente di Croce Rossa Italiana, vicepresidente della Federazione Internazionale, che non è in Italia in questo momento, è credo al momento in Israele, ieri era Gaza, oggi nel sud di Israele. Intanto, presidente, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Sì, salve, buongiorno a lei. Presidente, innanzitutto le chiederei un commento su questo Frontex Plus e sulla fine molto probabile a questo punto di Mare Nostrum. Ma se Frontex Plus riuscirà a coprire quello, il lavoro enorme che ha fatto Mare Nostrum, ovviamente è un segnale incoraggiante, ancora non sufficiente secondo me, perché quando si parla soprattutto per chi viene da zone di guerra di quei canali umanitari sicuri è ovvio che comunque ancora troppe persone perdono la vita in mare, questo è una cosa che ci auguriamo che non succeda mai più, però è sicuramente un segnale, finalmente l'Europa sembra prendersi qualche responsabilità, finalmente si esce da un Frontex che fino ad oggi sembrava essere solo burocrazia e nient'altro. Al 349-238-6666 ci sono vari messaggi, c'è anche un ascoltatore che deride, il professor Vassallo, ospite prima, e si chiede se le legge i giornali, Austria e Germania rimandano indietro i clandestini, molto spesso rimandano indietro anche i rifugiati, se per quello, ma è frutto di quella circolare Dublino 2, poi diventata Dublino 3, che obbliga il primo paese su cui il migrante sbarca e dove vengono prese le impronte digitali a espletare poi le richieste eventuali, le richieste di asilo. Facciamo una piccola pausa adesso su quello che è l'argomento un po' più italiano e stiamo invece sulle vicende di Gaza e di Israele, perché lei, Rocca, ieri è stato in visita a Gaza, una Gaza che festeggiava la tregua che speriamo che duri, però una Gaza che si leccava le ferite. Che situazione ha trovato? Ma guardi, sì, io mi sono trovato proprio nel momento, cioè, ero a Gaza nel momento in cui è stato annunciato il cessate il fuoco. La situazione sotto il profilo umanitario è devastante, veramente sono inusitati i numeri, importantissimi, perché in alcune aree della striscia la devastazione, la distruzione delle case è enorme, quindi si tratta di oltre 130.000 persone che non hanno un posto dove tornare, nonostante sia finito in questo momento, ci sia questo cessate il fuoco che speriamo possa durare il più a lungo possibile. Alcune scuole UNRWA accolgono fino a 4.000 persone in condizioni igieniche veramente difficili, e questo in un momento in cui c'è un problema serio per l'acqua e c'è un problema anche di energia elettrica, quindi è veramente una situazione sotto questo aspetto importante, per non parlare poi dei feriti, dell'impatto forte che ha avuto questo conflitto su danni permanenti, mutilazioni, quindi ci sarà anche un lavoro molto molto importante sulla riabilitazione delle persone. Ecco, Presidente, questa è la fotografia che ci restituisce di Gaza, però poi adesso le vorrei chiedere conto di quello che ha visto invece nel sud di Israele, toccato dal lancio dei razzi. Subito dopo però l'informazione finanziaria, stia con noi, Presidente. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci e con noi c'è il Presidente Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, anche Vicepresidente della Federazione Internazionale, che ieri era in visita a Gaza e oggi invece è in Israele. La domanda era proprio questa: come ha trovato il sud di quel paese, Presidente? Ma ovviamente la situazione è completamente diversa rispetto alla striscia, questo lo sapete tutti, e c'è una fortissimo stress come si sono vissute gli ultimi 52 giorni, e ovviamente questo continuo lancio di missili da parte di Hamas ha fatto sì che molti hanno spostato i figli in altre zone di Israele, e ovviamente il livello di stress è altissimo, però ho anche avuto dei segnali molto incoraggianti, perché questa mattina ho assistito alla collaborazione che c'è tra la Mezzaluna Rossa palestinese e il Magen David Adom per il trasferimento di feriti della striscia che vengono evacuati per essere curati all'estero, e su questo c'è una collaborazione che non è venuta a mancare, nonostante i volontari del Magen David Adom siano di Ashdod, di Ashkelon. Ho avuto modo di ascoltare la loro frustrazione anche, no? Nel voler in tutti i costi cercare di trovare una soluzione pacifica, sapere che dall'altra parte magari c'è questo lancio di razzi, e loro comunque, nonostante questo, il segnale incoraggiante è che c'è questa volontà di continuare a collaborare e cooperare, quindi non c'è soltanto una parte dello Stato di Israele che sicuramente si è radicalizzata nel conflitto. Io credo che comunque la considerazione dopo questi giorni di visita è quella che il diritto internazionale umanitario in quest'area del mondo negli scorsi 50 giorni è stato completamente disatteso da ambo le parti. Le conseguenze di questo conflitto sono devastanti e occorrerà riflettere profondamente sull'applicazione e le obbligazioni cui sono chiamate le parti per rispettare i civili in un momento di conflitto, perché questo assolutamente non è avvenuto. Grazie al presidente Francesco Rocca, Croce Rossa Italiana e Federazione Internazionale. Buona giornata e buon lavoro, presidente. Grazie a lei. Buongiorno. Dopo la forte denuncia di Rocca, leggo qualche sms sempre su tema immigrazione. C'è chi, Maria da Venezia, dice: si può sapere quale governo italiano ha sottoscritto i demenziali accordi di Dublino? Non si possono rinegoziare? Certo che si possono rinegoziare. Una delle ipotesi era, all'interno del regolamento Dublino 2, che poi è diventato Dublino 3, attuare un mutuo riconoscimento tra i paesi, di modo che i richiedenti asilo possano comunque muoversi ed evitare quell'ingolfamento, quei colli di bottiglia a cui faceva riferimento il professor Vassallo. Poi un ascoltatore mi dice che sono un ipocrita. Fammi capire, Musumeci, quanti clandestini possiamo ancora accogliere? L'80% circa non sono clandestini, sono richiedenti asilo. Non vedo dov'è l'ipocrisia, e ad ogni modo non è certamente la domanda che va rivolta a me, ma tutt'al più al nostro governo. E poi Ennio da Bergamo, che dice: la situazione attuale di dover urlare l'Europa dateci aiuto per Mare Nostrum è conseguenza della Dublino 2, dove i nostri rappresentanti o non sono stati capaci o se ne sono fregati di far valere le nostre ragioni. Questo purtroppo è quello che accade quando in Europa, dove chi ci rappresenta non è all'altezza. E ancora domanda: se non assistiamo più i migranti in mare dopo aver avvertito preventivamente, non pensate che questo sarebbe un deterrente? Dove è scritto che debbono venire scortati fino in Italia? Vorrei una riflessione libera e senza condizionamenti. Cosa farebbero negli Stati Uniti? Così un altro ascoltatore. Altri interventi li leggerò alla fine di questa trasmissione, ma adesso mi premeva fare una riflessione su quel che è vero, sì, è l'immigrazione. Si passano i confini avvolti regolarmente, aggirando le leggi, saltando barriere e barricate. Abbiamo parlato di Gaza, c'era il presidente di Croce Rossa Italiana, era lì e ci ha raccontato quella che è la situazione disastrosa umanitaria dopo questo lungo conflitto. E però c'è un'altra storia che vi voglio raccontare, perché è vero che a volte ci si muove in cerca di una vita migliore, ci si muove perché si scappa da guerre, ma a volte ci si muove per curarsi. E questo è un po' il concetto di un progetto si chiama Destination Hope, curato da un'agenzia fotografica, si chiama Parallelo Zero. Sono 12 storie di migrazione, di viaggio e di attraversamento di frontiere, però per scopi di cura. Il diritto alla salute è il centro del progetto e la gente che si muove per andarsi a curare. La prima storia ce la racconta Alessandro Gandolfi, fotografo, ed è la storia di una bambina di Gaza. Sì, è la storia di Zaia, una bambina di 4 anni malata di leucemia che ho trovato a Gaza, appunto, e che ho seguito nel suo viaggio Odissea, che ogni 2 settimane, ogni 3 settimane compiva meglio, perché purtroppo poi la bambina è scomparsa, appunto per andarsi a curare a un ospedale di Tel Aviv, un ospedale pediatrico, oncologico. E come puoi immaginare, il viaggio di per sé era un'odissea, soprattutto perché appunto passare da Gaza a Israele necessita tempo, necessita passaggi di più frontiere, non solo quella di Hamas e quella di Israele, ma Hamas e Israele non comunicano tra di loro, di conseguenza l'autorità palestinese si è messa in mezzo e quindi è un'ulteriore perdita di tempo. Insomma, il passaggio da Gaza a Israele per un Gazawi che va a curarsi a Tel Aviv, quando riesce a ottenere il permesso, è lunghissimo, possono passare 4, 5, 6 ore, insomma. E questa era una delle storie di Destination Hope, che poi sarà una mostra, ma poi ve lo faccio raccontare dalla voce di Gandolfi. Quello che mi premeva fare, ma lo capirete poi alla fine della trasmissione, era illuminare un paradosso. Vi sono zone del mondo dove vi sono migrazioni tra nord e sud e tra sud e nord per motivi diversissimi. In un caso il passaggio, il valicare la frontiera è estremamente facile, perché si hanno i documenti ed è in regola e magari si hanno soldi nelle tasche, e negli altri casi invece è molto molto più difficile. Sicuramente il confine tra Messico e Stati Uniti è una di quelle zone dove il problema dell'immigrazione è più sentito ed è di più raccontato. Sempre Alessandro Gandolfi di Parallelo Zero è andato a fare un'altra storia. Normalmente, sapete, si racconta sempre l'immigrazione da sud verso nord, no? Con questi treni, con i passeur che ti accompagnano nel deserto. Ebbene, lui è andato a cercare un'altra storia che da nord andava verso sud. Sentite perché. Ho incontrato una ragazza, ad esempio, in una clinica dentistica a Nogales, in Messico, che arrivava addirittura dall'Alaska. Cioè, questa si era fatta 2500 km in aereo, ha passato il confine Stati Uniti-Messico solamente per andare dal dentista. Questo le ha permesso di, così lei mi diceva, risparmiare il 70% su un impianto dentale. Un impianto dentale che negli Stati Uniti ti può costare dai 1.500 ai 2.000 dollari, qui ne costa 500, qui intendo Nogales in Messico, e quindi questo è, diciamo che è un buon motivo per molti americani, che li invita e li obbliga in un qualche modo, li obbliga anche perché molto spesso le coperture sanitarie, le coperture previdenziali coprono solamente parte delle spese sanitarie, appunto, tra cui anche quelle dentistiche, e di conseguenza molti americani si spostano, così come tra l'altro facciamo anche noi, molti di noi europei, verso paesi dell'est Europa dove appunto i prezzi sono inferiori. Sia la striscia di Gaza che la frontiera tra Messico e Stati Uniti sono una delle due storie di questo progetto, una mostra collettiva che racconta da una parte il diritto alla salute, molto spesso negato, e dall'altra come si guadagna faticosamente questo diritto alla salute, e cioè a volte attraversando frontiere, a volte percorrendo chilometri e chilometri. Queste 12 storie sono storie di migrazione, di viaggio, tutte per scopi di cura, in un progetto che possiamo ribattezzare, insomma, la migrazione per scopi sanitari. Sempre Alessandro Gandolfi ci ha raccontato meglio della mostra, ma soprattutto del progetto di crowdfunding. Se mi seguite già lo sapete, ve ne ho già parlato, è il finanziamento dal basso, che è una delle chiavi per cui ormai tanti freelance, insomma, si affidano per poter fare il loro lavoro. Destination Hope è una, appunto, mostra curata e organizzata da noi, dall'agenzia fotografica Parallelo Zero, che parte appunto da un presupposto che il diritto alla salute, che dovrebbe essere universale, spesso non lo è. E quindi, partendo da questo, abbiamo messo insieme, abbiamo raccolto, abbiamo fotografato in giro per il mondo 13 storie, appunto, due le abbiamo raccontate in breve, fotografate da 5 fotografi dell'agenzia, che diventerà, come dicevi, una mostra a Palazzo Braschi, Piazza Navona, a Roma, dal 25 settembre al 9 gennaio 2015. Abbiamo deciso di finanziarla attraverso anche una campagna di crowdfunding, perché l'argomento non ha attirato, devo dirti, tantissimi sponsor. Noi ci teniamo a raccontare e a porre l'accento su questo tema, appunto, la forma di migrazione sanitaria che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo, ma purtroppo gli sponsor non sono stati tanti, e quindi abbiamo deciso di autofinanziarci cercando fondi attraverso appunto una campagna di crowdfunding che dovrebbe essere pubblicata proprio oggi su produzionidalbasso.com. Quindi chi vuole può aiutarci a allestire questa mostra, a donare credo da 10 euro in su via internet, appunto, sul sito produzionidalbasso.com. E fra l'altro la ragione adotta da Alessandro Gandolfi per la produzione di questa mostra, no, cioè non c'è stato tanto interesse da parte degli sponsor, ricordo un po' le parole di un altro fotografo, ve lo ricordate, la puntata ieri, Vitor Brainer, che con quel suo progetto sulla propaganda, sulla guerra dell'informazione, appunto, cercava sponsor per andare a raccontare quell'aspetto della crisi ucraina. Lo ripeto, molte volte i freelance necessitano di queste attività di sponsorizzazione dal basso, perché perché la crisi dell'informazione è quella che è, perché gli inviati sono sempre meno, perché si sta pochissimo tempo sul terreno, e invece per fare lavori di questo tipo, per cercare storie e affrontarle nel modo più completo possibile, ci vuole tanto tanto tempo, a volte settimane, a volte mesi, come è il caso della storia che vi racconto tra poco, che è durata addirittura 6 anni nella sua ricerca, nel suo confezionamento. Abbiamo parlato di frontiere, andiamo a vedere che traffico fa sulle strade italiane, e poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun luogo è lontano. Vi accennavo di questo progetto fotografico durato 6 anni, è un fotografo italiano che ormai vive in Messico da parecchio, Nicola Hocking Friuli. Il progetto si chiama Il lato oscuro del sogno americano. Abbiamo fatto una chiacchierata con lui, sono dei ritratti incredibilmente impietosi e raccontano il dolore dell'immigrazione. Ascoltate. Ho deciso di iniziare il mio progetto nel 2008, e ero arrivato già in Messico con l'idea di rimanere a vivere qua, e avevo bisogno di iniziare un progetto a largo termine fotografico. Adentro del, diciamo, del cliché di quello che offre il Messico, c'era il narcotraffico e la migrazione. Sì. Mi sono ritrovato, io oltretutto migrante, perché sono venuto a vivere dove volevo che i miei temi fotografici fossero più vicini. Sì. Il tema migratorio qua era preso a livello documentale, dove le persone venivano fotografate sui treni, attaccate ai treni per poter viaggiare. Nessuno forse si era mai fermato a fargli una domanda a queste persone. L'ho voluto fare io, sapevo che andavo a scontrarmi con un progetto che emozionalmente mi andava a toccare nel personale. Credo che la visione che ha avuto il progetto adesso è giusto, perché è stata presa la migrazione in un ambito differente. Sì. Forse il mio tema non è neanche migrazione, è migranti. Sì, perché in effetti racconti delle storie, sono dei ritratti, a volte, perdonami anche il termine, degli still life, di oggetti appartenuti ai migranti, oppure di sogni, certo, di ambizione, come nel caso della bandiera. Ecco Nicola, partiamo da una storia su tutte. C'è una foto che è particolarmente impressionante, perché una donna honduregna porta sul suo braccio una cicatrice che dire vistosa e dire poco. Raccontaci la storia di Mariana, 29 anni, dell'Honduras. Mariana l'ho incontrata nel rifugio in Chiapas, in un rifugio in Chiapas nel 2011. Lei ha avuto un incontro con pandilleros nella zona della montagna. Lei stava camminando per riuscire ad arrivare a probabilmente alguna linea ferroviaria per poter prendere il treno, ed era accompagnata da un'amica, un comunque nazionale. Sì. E hanno cercato di stuprarla, l'amico è stato appugnalato, tanto che lei non sa che fine ha fatto l'amico. Avendo fatto molto rumore, urlando, l'hanno gettata da una scarpata molto alta e si è rotto il braccio. Credo che parte della storia di Mariana è importante, perché quando lei è stata soccorsa, dopo 15 giorni le hanno dato attenzione all'ospedale messicano, è stata in 3 ospedali e in nessuno degli ospedali gli avevano dato attenzione medica. Sì. Lei aveva l'urgenza di essere operata e non la operarono. E questo si vede anche dalla gravità della ferita, perché non è, come dire, non è stata curata in maniera adeguata a quello che si vede, insomma. Certo, queste sono le soluzioni di chi non può pagare il servizio medico. Sì. Meno in un paese dove risulta senza documenti. Certo. E poi ci sono altre storie che hai raccontato, e sono i ritratti che hai fatto sono sempre estremamente fisici, sono racconti di corpi, perché sì, si vede la protesi di una gamba, si vede un ragazzo, un uomo senza quasi la totalità del braccio, ad esempio questo Armando, che è uno del Salvador, lui era, sì, aveva provato a salire sul treno la bestia, che fra l'altro di cui raccontammo la storia in una puntata del programma tempo fa, che è questo gigantesco treno che attraversa da sud a nord ed è l'ultima speranza per tanti migranti. E tu hai descritto quest'uomo senza un braccio, e raccontaci meglio di Armando. Armando era già stato deportato qualche volta, e lui mi aveva raccontato che giusto dopo la deportazione non era neanche ritornato a casa. Cioè è entrato in Honduras, aveva ripreso il cammino per il nord. Lui è uno delle tante vittime che del treno, della bestia, che per disattenzione o per il complicato che poter salire sul tetto del treno, è scivolato, è stato amputato da una delle ruote del treno. Nel tuo lavoro, Nicola, spesso ti sei concentrato sugli oggetti, no? Che raccontano tantissime cose. Ad esempio vedo c'è una bottiglietta d'acqua con un filo, no? Con un laccio. Sì. Che apparentemente sembra, come dire, una foto, perdonami, banale, una bottiglietta d'acqua con un laccio, che cosa significherà mai? Invece, sembra banale e fuori dal contesto. Ecco, invece aiutaci a capire cosa c'entra una bottiglietta d'acqua e un laccio da scarpe attaccata al collo della bottiglia. Sì. Secondo quello che mi hanno raccontato, era l'unica forma per riuscire a portare acqua nel momento che tu tieni che tenere le mani libere e i piedi ben appoggiati per stare attaccato al treno. Quindi era una forma, diciamo, pratica per riuscire a portarti la tua bottiglia d'acqua, la tua riserva d'acqua. Nicola, quanto tempo hai dedicato a questo progetto? Dicevi dal 2008 hai iniziato a ritrarre i migranti. Sì, io ho iniziato nel 2008, quando recentemente mi ero già trasferito qua in Messico, a Città del Messico. Cercavo un progetto a largo termine. Ho iniziato questo progetto e l'ho mandato avanti fino a aprile 2014 di quest'anno. Quindi sono sei anni a caccia di storie. Che idea ti sei fatto dell'andamento del fenomeno, parlando con i migranti in questi 6 anni? È cambiato qualcosa? Sì, è cambiato molto. Nel 2008, oltretutto, il Tapachula, dove io ho fatto gran parte del mio lavoro, era un pueblo amichevole. Sono ritornato perché sono stato in altri posti. Quando sono ritornato all'inizio di quest'anno, il paese era assolutamente conflittivo, assolutamente poco sicuro. Oltretutto io ho avuto una minaccia telefonica perché stavo facendo questo lavoro. Nel 2008 è stato selezionato la prima parte del progetto a Foto in Spagna nel 2009 a Madrid. Una selezione di 6 foto è stata esposta nell'Istituto Cervantes di Madrid prima. E poi è stata a New York, a Chicago, è stata a Roma también. Sì. Hai intenzione di proseguire nel progetto? Credo di no, credo che mi sono anche spaventato un po' con la minaccia che ho avuto. Credo che se lo continuo non lo continuerò dopodomani, aspetterò per fare in modo un po' che le acque si possano calmare. Hai mai capito chi è che ti ha minacciato e che cosa ti ha detto, insomma, esattamente? Mi hanno chiamato in hotel dove stavo dormendo un lunedì, era il 3 di marzo. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: ci sono uomini armati che stanno entrando nella tua stanza, stanno cercando fotografi, fotoperiodisti. Hai mai capito chi fossero quegli uomini armati? Ma io credo che fosse gente locale che aveva un tipo di negozio di traffico di persone. E credo che erano legate alla foto della bambina, di Jennifer. Credo che pensavano che io volevo fare troppe domande sopra l'incidente. La foto di Jennifer è una delle foto che fa parte del tuo progetto ed è forse una di quelle più toccanti. La bambina ha 8 anni, l'hai ritratta con questo vestitino blu e lo sfondo è nero, come appunto il formato delle tue foto. Il viso è totalmente tumefatto e quasi irriconoscibile a causa di un incidente di auto. Lei stava appunto risalendo verso il nord. Grazie mille, Nicola, per essere stato con noi, per la tua testimonianza. Molte grazie, a presto. E allora, se volete vedere le foto di Nicola, andate su www.nicolaokin.com, nicolaokinphotography.com, che racconta appunto l'emigrazione dal sud verso il nord tra Messico e Stati Uniti. Però torniamo sul tema col quale abbiamo aperto questa penultima puntata di Nessun Luogo è Lontano, domani è l'ultima, che era Frontex, questa Frontex Plus, ma abbiamo capito non è il nome vero, che andrà ad affiancare, attenzione, non a sostituire Mare Nostrum. Lo abbiamo ripetuto perché volevamo una dichiarazione chiara e, come dire, definitiva da parte di Isabella Cooper, portavoce di Frontex. L'ascoltiamo insieme. The reason why I don't agree with the word replacement is that the word replacement. Dice, la ragione per cui non sono d'accordo con la parola sostituzione è che per sostituzione si intende un'operazione identica che si effettua nelle stesse modalità e nello stesso ambito geografico. E questo non è il caso. La nuova missione si svolgerà con un'estensione territoriale molto minore e molto più vicina alle coste italiane. Frontex continuerà a sostenere le autorità italiane fornendo mezzi ed equipaggiamento tecnico alle navi, mezzi aerei coinvolti e inviando esperti. Ma le dimensioni, l'obiettivo della missione dipendono, come detto, dalle risorse economiche che saranno individuate dalla Commissione europea e dalla partecipazione degli altri Stati membri. This assistance clearly depends on the financial availability of means provided to us by the European Commission and by. E queste le parole di Isabella Cooper. Ho un minutello, anche meno, per leggere alcuni SMS, alcuni che denunciano tutta la frustrazione, perché si dice: Mauro da Udine, partite, poi fate una brutta fine, vi piangiamo anche noi, rivolte ai migranti, perché non ve ne state a casa vostra? La Spagna non dà armi agli ebrei, dice, con un epiteto non pronunciabile qui. La Spagna ha fatto un muro a Ceuta e Melilla, ci sono muri giusti e ingiusti, così un ascoltatore. E un altro che ci segnala: viaggio verso la Francia, a Mentone salgono i gendarmi, retata e riportati a Ventimiglia, Europa Unita, strilla questo ascoltatore, evidentemente ironico. E poi c'è chi, come qualcun altro aveva detto, l'opinione pubblica non conta nulla, perché non fare un referendum su come la si pensa sulla questione immigrazione? Ma potrebbe essere un'ipotesi. 16:57, vi saluto anche Mira Lucchetti, Nadia Zemmiti in redazione, Roberto Scaltitti in regia. Noi ci sentiamo domani ore 16 per l'ultima puntata di Nessun Luogo Lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.